Zolt. Fulminati in azienda. NCS non ci siamo, centrifuga non ci siamo, io non so più cosa mi devo inventare, non capisco, eppure lo sento che c'è qualcosa che mi sfugge, lo ma so. Che c'è, ma che te è successo? Ma okay, come cosa mi è successo? Sveglia, ma dove vivi? Qui i conti non tornano mai, è incomprensibile, abbiamo il miglior prodotto di tutti i tempi, un servizio post vendita da paura. Ah, è così, allora mi sa che c'è ragione, io vivo su un altro pianeta, non me ne ho mica accorto. Forse sì, anche perché qui le abbiamo provate tutte, promozioni, offerte, sconti, e il nostro X900 continua a non decollare. Io non so più dove sbattere la testa, è un rompicapo, non dormo più la notte. Non capo, c'ho la soluzione. Namo da Magacic, come al solito, e di sicuro c'ha la chiave di svolta. Bravo Centri, forse è la volta buona, perché solo la maga può far luce su questo enigma, e io così potrò riprendere a dormire, che sono settimane che non dormo a casa per trovare una soluzione. Capo, ma mi stai a coglionare, perché se passi la notte da Svetlana pensi di riposare. Cucci pane, cucci pisci, sto malocchio vi sparisci. Maga, mi scusi. Buongiorno. Mi aspetta. Sì. Avete trovato la fila al casello? Eh sì, era tutto bloccato, in autostrada, un macello, guardi. Ma lei come faceva a sapere della fila al casello? Maga, guarda, le devo chiedere la verità, devo dire la verità, mi deve aiutare perché sto impazzendo. Che è successo? Le vendite non decollano? Nonostante promozioni, offerte e pubblicità, che c'ha sto rompicapo? A capo, ha usato pure le tue stesse parole. Secondo me qualcuno ci osserva, qualcosa tipo Grande Fratello. Ma non dire sciocchezze, Centri, fai concentrare la maga. Sì. Allora, maga, mi dica, che cos'è che dobbiamo fare? Ci faccio i bei occhi. Ce li faccio. Calma un attimo. Ecco, vede qua? Sì, che cos'è quella carta lì? Aia, è l'impiccato. Come l'impiccato? Ma mi sa che si mette male, capo. Stai zitto tu, dai, maga, cosa vuol dire quella carta lì? Cosa vuol dire l'impiccato? Che c'è, vedo un cappio al collo. No. La concorrenza avanza e il tempo si restringe. Vabbè, ma allora cosa dobbiamo fare con tutti questi concorrenti? Sono agguerritissimi, sono senza scrupoli, maga. Guardi, due cose potete fare. O fate meglio di loro, oppure ve li accattate a tutti. No, non ho capito, maga, cosa dobbiamo fare? Ce li dovemo comprare. Bravo. Così, se ve li comprate a tutti, non ci sarà più la concorrenza. Cioè, posso dire una cosa? A voi, solo il monopolio vi può salvare. Pronto? Ciao, squalo! Oh, carissimo, sul pezzo, ciao, come stai? Che piacere, allora, che si dice dalle due parti? Guarda, squalo, è sempre un piacere sentirti, ma sto passando un bruttissimo momento. Ho appena scoperto che siamo sopraffatti dalla concorrenza. Non riusciamo a far decollare le vendite. Certo, sul pezzo, lo sanno tutti, da quando è entrato in commercio l'Y900 non riusciamo più a vendere manco uno dei nostri X900, i concorrenti cinesi spopolano. Ma come i cinesi spopolano? Uè, ma lo sapevi anche tu? Ma ci hanno copiato il nostro prodotto di punta, nessuno mi dice niente qui, solo loro. E perché poi l'Y900 vendi di più del nostro X900? Sul pezzo, se voi svegliate, faccio un riassunto, è il prodotto cinese, vende di più perché costa la metà del nostro e poi soprattutto non te esplode in mano. E allora sai cosa faccio, caro il mio squalo? Me li compro tutti io i prodotti della concorrenza, così li leviamo di mezzo e torniamo al nostro amato monopolio. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T